Se hai peccato, chiedi perdono ad Allah. Se hai subito perdite materiali, torna ad Allah. Se ti hanno fatto torto, sii paziente e sopporta. Questa è la tua medicina. Se poi Allah non ti fa conoscere la causa della tua sofferenza, sta tranquillo sotto il corso del decreto divino. Si tratta di una nuvola che passa. Appartiene alla fede e ai doveri verso Allah sopportare le critiche della gente per cose che non ti diminuiscono di fronte ad Allah, ma che danno fastidio alle persone sviate. La scienza religiosa non giova contro quattro cose: l'amore della vita mondana, la dimenticanza della vita futura, la paura della povertà e la paura degli uomini. Quando Allah ha in odio un suo servo, gli mostra le fortune materiali da lui possedute e gli nasconde gli errori religiosi che quello commette, sicché quell'uomo si crogiola nelle passioni fino a perirne senza rendersene conto. La scienza sta nei cuori come le monete nelle mani. Allah se ne serve come vuole, sia per giovarti, sia per farti del male. Se qualcuno ti predica qualcosa contraria al sublime Corano o alla nobile Sunna, tu non dare retta e attaccati al sublime Corano e alla nobile Sunna dicendo a te stesso: Allah mi ha garantito la perfezione mediante il Corano e la Sunna. Le cose ricevute altrimenti possono servire soltanto dopo averle misurate sul Corano e sulla Sunna. Non ti inganni il giudizio superficiale di chi dice che l'Islam non ha uno spirito. Lo spirito dell'Islam consiste nell'amore per Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, per il suo profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, per la vita futura e per i devoti servi di Allah. Che Allah si compiaccia di loro. Un uomo colmo delle luci di Allah diventa cieco alle mancanze e alle tare dei fedeli credenti. La compagnia di un ignorante scontento di sé è preferibile alla compagnia di un dotto soddisfatto di sé. Il tuo vero fratello è quello con cui hai in comune l'entusiasmo dell'iniziativa islamica e la portata dell'intelligenza, non quello con cui vai d'accordo sul significato di una sura del Corano. La buona creanza è questa: con la gente mondana non dare importanza a quello che possiedono ed esalta la vita futura. Quelli che aspirano alla vita futura, esortali al sublime Corano, alla fedele osservanza della Sunna e magnifica la vita eterna. Vennero a contrasto la ricchezza e la povertà. Disse la ricchezza: io sono una delle qualità di Allah. Tu chi sei? Rispose la povertà: se non fosse per la qualità mia, non si distinguerebbe la qualità tua. I figli della vita mondana sono assorbiti da essa e intanto, accecati da essa, ogni respiro che fanno l'abbandonano senza sapere a quale esito infausto vanno incontro. Chi voglia sapere quale grado abbia raggiunto nella scienza, faccia risalire tutto quello che sa alle fonti e, ciò fatto, consideri quanta scienza gli rimanga. Troverà che il residuo di suo sarà molto scarso. Devi considerare dotto solo chi possiede scienza che non sia stata da lui presa in prestito. Gli altri sono dei tessitori, dei portatori della scienza altrui. Il loro merito è di trasmettere, non di produrre. Ibn Hanbal disse di aver visto in sogno Allah e di avergli chiesto: qual è il modo di avvicinarsi a te? Rispose Allah: la recitazione della mia parola. Domandò nuovamente: intendendola o senza intenderla? Rispose Allah: sia intendendola, sia senza intenderla. Tutto quello che ti viene da Allah per questa vita terrena e per quella futura, richiesto e non richiesto, ma permesso da Lui, è un dono che Allah ti fa e tu non devi analizzare i suoi motivi, mentre hai il dovere di analizzare quello che ti venga da altra fonte. Non è perfetta la fede fino a quando diventi per essa esente da ogni dubbio la realtà dell'invisibile non meno della realtà del mondo visibile. Per vivere sani bisogna mangiare e bere soltanto quando se ne abbia bisogno, nella quantità sufficiente a saziarsi, alimenti di una sola qualità, riposando e dormendo dopo i pasti e astenendosi da movimenti affrettati. Se le finestre della casa sono molte, diminuisce la sua tranquillità, ma aumenta la sua luce. La contemplazione della moltiplicità del creato fa crescere la scienza del dotto e l'ignoranza dell'ignorante. Due sono gli uomini particolarmente tribolati: quello conosciuto dagli uomini e quello che conosce gli uomini. Le tribolazioni del primo vengono da Allah e quelle del secondo da lui stesso. È buona regola di non far visita a nessuno se non si ha la forza d'animo di tenere nascosti i difetti di chi si è visitato. A dimostrazione di rispetto, alzatevi in piedi soltanto davanti alle persone di cui sapete che non amano i complimenti. Infatti, chi li ama insuperbisce di un onore che non merita. Non andate in collera con chi vi fa del male, è la volontà di Allah che gli ha dato potere su di voi. Fa tutto quello che la legge comanda perché è legittimo e comandato, non per altro motivo. In ogni tua condizione o azione, prescindi dai motivi e basa ogni tua decisione sulle parole del sublime Corano. Sii servo di Allah, non di te stesso o del denaro. Tutto quello di buono o di cattivo tu pensi influisce sulla tua adorazione nella misura del tuo amore per Allah. Non sei stato creato per te stesso o per il mondo. Allah ti ha creato per sé. Non fuggire dunque da Lui. Accetta tutto quello che Allah, non richiesto, ti manda, e quando avrai raggiunto il livello di amico di Allah, conoscerai l'origine di ogni boccone e saprai se merita di essere mangiato, come il muratore conosce il posto di ogni mattone che egli colloca. Chi crede al male che si dice di lui progredisce, mentre chi crede al bene che si dice di lui perisce. Non dobbiamo essere imbarazzati nell'acquistare la scienza e di impossessarcene da qualsiasi fonte essa provenga. Per colui che vuole giungere ai livelli più alti della verità, non c'è valore più importante della verità, la quale non umilia e non sminuisce mai chi la cerca. Chi interroga molti medici commette di certo molti errori. Come la pioggia fa germogliare la vegetazione, così il canto fa germogliare nel cuore l'ipocrisia. Per ogni cosa c'è una chiave, e l'amore per i poveri è la chiave del paradiso. Guardati dall'invidia, essa infatti distrugge le opere buone come il fuoco manda in cenere la legna. Non invidiatevi, non rompete i rapporti esistenti tra di voi, non invidiatevi, siate fratelli come Allah ha ordinato. Non è lecito a un musulmano evitare un altro musulmano per più di 3 giorni. Se ricevi in dono un fiore, non rifiutarlo, poiché esso proviene dal paradiso. Scambiatevi doni, poiché il dono tiene lontano il malanimo. Per due che si amano non c'è soluzione migliore del matrimonio. La vita è gioia, e la gioia più bella della vita è una donna virtuosa. Chi per amore di Allah si comporta con umiltà sarà innalzato da Allah. La persona umile è di poco valore ai suoi occhi, ma è di grande valore agli occhi della gente. Colui che si gloria sarà umiliato da Allah, egli sarà insignificante agli occhi della gente, mentre sentendosi grande si comporterà in modo da diventare più odioso di un cane o di un porco. Dopo la religione, il culmine della sapienza consiste nell'amore per tutti gli uomini e nel far del bene tanto ai buoni quanto ai cattivi. Colui che si pente del suo peccato è come colui che non l'ha commesso. Rendete le cose facili, non rendetele difficili. Date notizie che rallegrano, non fate scappare. Il migliore di voi è colui che quando lo vedete suscita in voi il ricordo di Allah. L'invidia non è lecita tranne che per 2 persone, per l'uomo che ha ricevuto la ricchezza e ne spende una parte per la causa di Allah e l'uomo che dopo avere ricevuto la scienza la mette in pratica e la insegna. O Allah, concedimi di amare te, di amare chi ti ama, di fare sempre ciò che mi rende meritevole del tuo amore e concedimi infine che l'amare te mi sia più caro di me stesso, della mia famiglia e del mondo intero. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, e la lode appartiene ad Allah, il Signore di tutti gli universi.